24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Bella ciao, così Giorgio Gori, il neo sindaco di Bergamo, ex berlusconiano doc, nel senso ha lavorato una vita con Berlusconi, ma ora sono altri tempi, poi è renziano, è colui che ha dato il via insieme a Renzi ai tempi della rottamazione, così ha cantato Bella ciao. Dopo aver conquistato il comune di Bergamo. Vabbè, cari italiani, qui è tutto un commento sulle elezioni amministrative. Ha vinto il PD, ha perso il PD, ha vinto il Movimento 5 Stelle, ha perso il Movimento 5 Stelle, ha vinto Forza Italia, ha perso Forza Italia, ha perso la Lega, ha vinto la Lega, Aurora, ha vinto la Lega. Eccoci qua, sì, a Padova. Sì, a Padova, certo. Aurora Lussana, direttore della Padania, modello Padova, modello Padova, titola oggi la Padania. Quale sarebbe questo modello Padova? Beh, il modello del buon governo, un centrodestra che dopo l'eutanasia delle scorse europee può ripartire da validi amministratori e dai leghisti che sanno fare da traino, riescono a motivare ancora l'elettorato del centrodestra e portarli persino a votare al secondo turno, sì, ai ballottaggi l'8 di giugno con l'anticiclone africano, portare la gente a votare con l'anticiclone africano in Padania, insomma. Vabbè, un'analisi. La Lega ce la fa, Forza Italia no. Sì. E quindi insomma, la Lega è il nuovo. Forza Italia avvertita. Effettivamente. Poi vedi, è ripartito tutto da Milanello, hai visto ieri cosa è successo, come aveva detto Salvini, e quindi insomma. Cioè che cosa c'entra Milanello adesso? Non ho capito. Che hanno cacciato Sedo. Che venerdì scorso Salvini ha incontrato Berlusconi a casa Milan. Sì, e cosa gli ha detto? Gli aveva detto: vorrei un Milan più giovane e più italiano. Infatti ha preso Inzaghi. Vedi? È la Lega che tiene oserei dire per le palle Forza Italia, ecco, questo non volevo dirlo, ma l'abbiamo detto, va bene, insomma, Aurora Lussana è così gondola. Ma cosa gondola. Vuoi che gondoli con quello che è successo a Bergamo, dai che sono illuso. Ah, è vero, questa non la... Ah, un attimo, allora facciamo così, saluto Miriam Lucchetti in redazione, Gianmarco Ferronato anche oggi in regia, al debutto bis, al secondo giorno. Apriamo il Parlamento, dai Gianmarco, così aiutami anche a tirare sulla Claire. Il caffè volentieri a tutti quanti, come dicono a Bergamo. Ecco, è in lutto Aurora Lussana, in lutto per Bergamo. Cosa c'è? Qual è il problema? Tanto vinceva o centrodestra o centrosinistra. Bergamo dove? Bergamo chi? Bergamo dove? Che problema c'è con Giorgio Gori? Abbiamo i Kennedy bergamaschi, Kennedy in salsa aerobica, faranno anche la taragna con spolverate di tartufo, perché se loro... ma questa dei Kennedy me l'hanno detta, ma è vera che l'hanno detto? Ma No, vabbè, adesso sono obamiani, visto che ieri la parodia era vestita come la Michelle Obama. Sì, sì. Niente, sì. Hanno scambiato Palazzo Frizzoni per la Casa Bianca e va bene. E va bene. Tanto, guarda, i bergamaschi ogni 5 anni il sindaco lo mandano a casa. Quindi. Ah, quindi, caro Gori, hai i giorni contati. Hai i giorni contati. Per questo in America ogni al massimo 8 anni cambiano il presidente, eh? Quindi non è che non è questa grande, questo grande dramma stare 5 anni e poi... No, no, va bene, bella ciao, canta, va bene. Bella ciao, canta bella ciao, e va bene. Senti, sai che noi dobbiamo collegarci con Mario Dinolfi, ma il tuo amico Mario Dinolfi in questo momento non è raggiungibile, ma perché c'è un piccolo giallo su dove sia, insomma... Per motivi di sicurezza? No, no, perché per motivi di sicurezza? No, no. Non ha il coraggio di affrontare, confrontarsi con Aurora Lussano. Ma sì, secondo me Maria Dinolfi si è dato. No, non ha il coraggio di affrontare Aurora Lussano. Questo è il dato del fatto. Non ha il coraggio di affrontarsi. Vediamo un po'. Marione? Come al solito, insomma, dici e non è, insomma, ecco, no, allora Aurora Lussana e Mariona Dinolfi. Mario, dove stai? Cosa fai? Mai lasciare in giro due lombardi da soli, insomma, vedi che succede. Appunto. Dove sei? Dove sono? Un sacco di fregnacci. Sono dietro l'angolo, insomma, al Caesar Palace di Las Vegas, per la precisione. Eccolo lì, ai mondiali di poker. Esattamente. Altro che ai mondiali di calcio, ma chi se ne frega, ai mondiali. Ma chi se ne frega, insomma, veramente. Ma che vedranno qualcosa se vince l'Italia? Non credo, insomma, no. Infatti, Lussana si dispiace pure, Lussana dispiace se vinciamo. Infatti, ma adesso lo vedremo. So adesso con la svolta nazionalista la Le Pen non deve andare in giro col tricolore, questo non ho capito. Attenzione, perché di Le Pen adesso parliamo. Adinolfi, quanto hai vinto finora ai mondiali di poker? No, sono appena arrivato, quindi datemi tempo di riprendermi dal fuso orario, che è terrificante, perché insomma, voi non lo sapete, ma io in questo momento sono, diciamo così, a 9 ore di distanza indietro dalla vostra augusta trasmissione. Vabbè, sono 9:30 di sera in questo momento, sei il giorno prima, però sei sereno, cioè sei alle 9:30 del lunedì sera, cioè voglio dire, poi non sei neanche andato a cena, poi vivi in un altro mondo, fai la vita, diciamo, di Las Vegas da Las Vegasiano. Poi quando dovresti dormire comincia a telefonare i rompiscatole tipo Milan, insomma, che comincia così, e alle 3 di notte insomma, ti chiamo e ti dico: mi avresti il favore ospite a Teletuscolo? Sei su Radio 24. Alle 3 di mattina chiama Teletuscolo, fortuna Radio 24 lo sa, insomma, chiamo un po' prima. Comunque, caro Marione, c'è Aurora Lussana, dice: in lutto per Bergamo, Giorgio Gori. Tanto dice lo cacciano tra 5 anni, a Bergamo ogni 5 anni cacciano a calci il sindaco, e quindi nessun problema. Poi hai visto che c'è... A casa sua gli hanno fatta stavolta. Bravo Giorgio. Bravo Giorgio. Ti è Aurora, hai capito? Che tu che gongoli per Padova, per queste quisquiglie, invece ti becchi Giorgio Gori. Ma soprattutto, attenzione, il tema oggi sui giornali è: ha vinto il Partito Democratico o ha perso il Partito Democratico, ha vinto il partito di Renzi? Non si capisce, bene, no? Sai cosa ha detto Guerini, vicepresidente democratico? Ha detto: abbiamo perso l'impero romano, possiamo ben perdere Livorno. Che problema c'è, Marione? Abbiamo vinto altrove, Livorno. Sì, c'è questa cosa un po', forse qualcuno lo sa, io sono molto amico di Renzi e del renzismo prima maniera, diciamo, di quello che perdeva. Io sono romantico, mi piaceva prendere le botte, insomma, quindi penso che però non siano molto lucidi in questa distinzione. Politicamente è intelligente fare questa cesura vecchio-nuovo, perché ha un suo senso, non è vero che è insensato. Il fatto che Matteo non si sia esposto, perché ricordiamoci, lui non c'è andato a Livorno. Io stavo in televisione prima di partire dicendo: se Matteo non va a Livorno, il segnale è pesante per il candidato livornese. E anche Perugia, che è un'altra situazione molto particolare, perché sì. Perugia ci sono andato io in queste 2 settimane di ballottaggio, mi sono andato a presentare il libro e percepivo una sensazione molto strana, anche qui un territorio dove da 65 anni non c'era proprio discussione, insomma. Questi elementi nel cuore della Toscana rossa e geograficamente renziana un pochino mi hanno impressionato. E anche quello di tirare fuori indietro la gamba di Matteo, non è una cosa. Però è interessante questo contrasto vecchio-nuovo. Aurora, secondo te, da adesso da analista della politica, fa bene Renzi a rimarcare la differenza e adesso quando torna dal Vietnam le farà botte un po' con tutti a dire ora cambiare? Perché laddove abbiamo cambiato abbiamo vinto e laddove non abbiamo cambiato ci sono i vecchi democratici, abbiamo perso. Questo è il senso, no? Fa bene? Beh, certo che fa bene, scusa, gli viene dal primo giorno bene questo ruolo quasi estetico, no? di rinnovamento del PD e continua, quella lì è la sua, cioè, quella roba lì lui la fa fare benissimo, lui ha introdotto questo simulacro di democrazia renziana e lui è sacerdote e tutti gli altri sono eretici. Guarda cosa è successo a Padova. Lui a Padova non ci è andato Renzi, lui usma l'aria, quando capisce che c'è il candidato un po' bollito, un po' compromesso, manco si fa vedere, non ci mette la faccia, come dice lui, e certo che c'ha ragione. E poi, perde. Il concetto di democrazia estetica da simulacro, come dicono i filosofi contemporanei, va bene. L'onore di un partito però è un'altra roba. Che si mette la faccia anche laddove magari rischi di perdere. Sì, eccola lì. La zampata ha tirato fuori il barione, ha tirato fuori la sciabola che gli era rimasta dopo la festa padana e zacchete ha infilato Renzi. Ah, sì, sono stati festeggiamenti la festa lombarda. Ma tu non lo sai, ma io sono quando sono uscito in redazione qua non ci si muoveva, carri allegorici ovunque, gente bardata da Longobardo, non potevi fare due passi perché ti tiravano dentro in festeggiamenti, no? Milano. Io qui accanto c'ho il Bellagio proprio di riproduzione del lago di Como. È vero. Infatti vanno ovunque. È vero, a Las Vegas. Attenzione. A Las Vegas ci sono queste riproduzioni veramente vergognose. Vergognose, qui ci sono sposato a 20 metri dal Bellagio. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Vabbè, Aurora si fa per scherzare. Sul lago di Como, ma al Bellagio. Aurora si fa per scherzare con la festa longobarda, eh? No, ma le feste longobarde magari sono straordinarie, piuttosto che i simulacri alla Las Vegas. Comunque no, ho visto le foto del matrimonio e mi compiaccio e mi complimento. Con la Ninolfi? Ma l'hai visto com'era vestito? Sei sicura? Bellissima. Ma io mi emoziono sempre ai matrimoni, insomma... Potevi invitarla però, Mario, perché insomma potevi invitarla a Las Vegas al matrimonio. Sempre io, insomma, in effetti un pensierino, so. Se mi corteggiavo un po' la sposavo anche, col fatto di impegnata. No. Sarebbe stato proprio assistere come una mosca alle discussioni serali sulla politica tra Aurora Lussana e Mario Adinolfi. Secondo me discuteremo di più sul cibo. Penso anch'io che la politica me ne frutta abbastanza. Vabbè. Allora, che arrivi fino a Las Vegas dopo il traffico, la segreteria telefonica di 24 mattino. Oh. 24 mattino. Quando la merda avrà valore, nessuno più di noi andrà a cacare. Renzi, testuale, la gente che ruba va mandata a casa. Bravo, così davvero l'avremo dissuasa. Ma non era meglio mandarla in galera? A Renzi, bello, al cervello, buonasera. La situazione economica italiana si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Wow, wow! Miau! Milan, hai visto come sono stata veloce a cambiare verso l'Italia? Babù che Renzi, con tutte le sue chiacchiere, è ancora più veloce di me. Berlusconi si è dimesso perché il giorno prima la borsa gli ha diminuito del 10% le quotazioni della Mediaset. Se continuava a stare lì, io e te ce la compravamo con i tuoi 2 eurini e i miei altri 2 eurini. Continuiamo a parlare di corrotti e di regole. Il problema è che le regole le fanno i corrotti. Questo è il problema principale. Le scivolate sono sempre d'attorno. E una adesso capita a Livorno. Con il PD da sempre assai tranquillo, che vien battuto, ahimè, da Beppe Grillo. I livornesi restano di stucco e per consolarsi mangino un caciucco. Ciao me da Felice Pautazzo. E va bene, va bene. Come va, Marione? Ancora tutto a posto? Stanno sempre facendo di roba peggiore, insomma, fagli cambiare buscia da questi qui, insomma, eh? Addirittura. Ma che roba? Ma chi... Ma è il nostro sfogatoio, la gente dice. Ma quello non è uno sfogatoio, è una cosa ormai che sta toccando vette di surrealismo. Insomma, cioè, surrealismo. Sono Dalì senza essere Dalì, la tragedia praticamente. No, vabbè, vabbè. Allora, il centrodestra un po' in difficoltà, ma come Aurora Lussana, sì, voi avete vinto la Padania, la Lega, Padova, evviva, evviva. Ma com'è che avevate non voi della Lega, ma il sindaco più amato d'Italia, Cattaneo, a Pavia. Senti un po' che dice Cattaneo, Che il rinnovamento sia indispensabile è sotto gli occhi di tutti. Se guardiamo le percentuali che Forza Italia ha preso sia alle europee che a tutte le amministrative, è lì da vedere. Mamma mia, come ha tapirato, Ma com'è possibile? Il sindaco più amato d'Italia, anche Berlusconi pare che abbia commentato così, ha detto il Corriere, era il sindaco più amato d'Italia e ha perso così. Se il sindaco più amato d'Italia vince il primo turno, penso, non so, tu sei Caverone, insomma, ha vinto. Eccolo là, subito. Senza andare al ballottaggio. No, sì. Se non piazzi dentro il leghista che... Ti fa da traino, non ce n'è, perché non si mobilita il centrodestra al secondo turno. Vincono quelli del PD per diserzione del centrodestra e quindi serve un leghista. Il 20 di luglio partiamo proprio da Padova, perché il congresso federale della Lega si svolgerà lì, nella città del Santo, e spero anche porti buono. La Lega offrirà la sua offerta politica al centrodestra e che ci ascoltino. Se no vanno verso il genocidio del centrodestra. Mannaggia. Magari che vi ascoltino anche in Europa, Mariona Dinolfi. Cosa diciamo a questa bella leghista dell'alleanza con Marine Le Pen? Hai sentito? È arrivata fino a Las Vegas l'ultima di Jean-Marie Le Pen, il padre di Marine. L'hanno zittito, mi fa di capire. L'hanno zittito. Che non fa parlare il papà. Esatto. Jean-Marie Le Pen si è prodotto in questa brillante dichiarazione. Gli hanno chiesto cosa ne pensa di quelli che minacciavano di andarsene se il Front Nazionale avesse vinto le elezioni. C'è anche un cantante ebreo, e l'hanno citato, non so come si chiama. La prossima volta faremo un'infornata, ha risposto Jean-Marie Le Pen, condendo tutto con una bella risata. Marione, non saranno comodi, insomma, ecco, con il Front Nazionale, che è un partito molto composito. D'altronde anche la Lega ha accenti qualche volta, insomma, molto, molto pesanti. Da questo punto di vista, secondo me c'è un problema significativo. No, però devo dire, Marine Le Pen ha zittito il padre, Marine Le Pen ha zittito il padre, ha detto che era un errore politico, quindi e sono sicuro che Salvini farebbe lo stesso, con accenti analoghi che magari possono essere ascoltati quando parla qualche leghista. Che non ama gli immigrati, per esempio, tanto per dirne uno. Ecco, appunto. Il dato reale. Scusa, perché sbarcano gli ebrei sulle nostre coste. Tu hai mai sentito una dichiarazione antisemita? In Lega? Non è mai registrata una. No. Qualcuna contro gli immigrati? Sì. Allora, io credo che semmai dovrebbero essere comunità islamiche magari a criticare la Lega, non certo le comunità ebraiche come Ah, ma per dire che ce l'avete contro i migranti. Certo, no? Ci sono accenti, a mio avviso, in alcuni momenti, quando parla la base leghista, intollerabile a mio punto di vista, insomma, nei confronti di del diverso, perché questo è il tema, insomma. Aurora, lo devi accettare, cioè nel senso, il paragone è come Marine Le Pen o Jean-Marie Le Pen dice qualcosa contro gli ebrei, dalla Lega qualcosa contro gli immigrati si è sentito qualche volta o no? Ma direi, io 50.000 clandestini che sono sbarcati in 6 mesi sulle nostre coste non li voglio. Questo essere una xenofoba, aver paura, che te l'ho già detto, io non ho paura di nessuno straniero, proprio è una domanda che vi faccio, cioè io sono contraria alla Mare Nostrum, quindi sono antisemita, cioè l'equazione no, è questa? Non era questa l'equazione, a dire che come Jean-Marie Le Pen ha detto qualcosa, cioè, che può essere imbarazzante essere alleati con una che è figlia di uno che dice una roba del genere, questo è che... Ma tanto comanda Marie Le Pen, infatti voti la piglia. Comanda Marie Le Pen, vabbè. Allora dai, in 20 secondi, dammi la ricetta del giorno, cosa cucini oggi per festeggiare a Padova? No, sai che cosa? Che c'è sto caldo africano e quindi patisco un po'. E sto facendo delle coscettine di pollo, a volte in una festa di pancetta coppata, avanzata. Avanzata? E, ma come? A Dinolfi, sì. Come avanzata? E le faccio rosolare nel burro e si chiama il jambonit del polaster. Ah, il polaster, capito, a Dinolfi? Sì, propongo l'hummus invece. L'hummus è una bella pasta di ceci araba, buonissima, freschissima, molto estiva. Che a Las Vegas fa da paura. Molto buona, molto buona. Aurora, non è ancora cominciato il Ramadan, quindi Ramadan, sì, la festa di pancetta. Dai, dai, mi devo salutare. Salutare, alla prossima! Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:19 minuti, cari italiani, cari debosciati miei, siamo pronti a commentare dalle 8:15 quelli che sono i risultati elettorali dell'amministrativa, avremo tanti ospiti, avremo il neo sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il neo sindaco di Civitavecchia Giorgio Gori del PD. Neo sindaco di Civitavecchia Antonio Cozzolino del Movimento 5 Stelle, avremo il neo sindaco di Casal di Principe Renato Natale in provincia di Caserta, terra celebre, resa anche celebre purtroppo dalla vicenda scritta e descritta da Saviano, e a questo proposito da lui che era il sindaco quando fu ucciso Dondiana, lui è che è tornato a essere sindaco, e con lui avremo ospite anche Marco D'Amore, attore che è diventato famosissimo in questi giorni perché è il protagonista della serie Gomorra, che proprio questa sera finirà con gli ultimi due attesissimi episodi su Sky. E per cercare di capire in questo viaggio chi ha vinto, chi ha perso, e anche qualche analisi politica. Allora, dalle 8:15 questi gli ospiti, ora l'analisi politica delle amministrative la vediamo attraverso la lettura dei giornali. In questo martedì 10 giugno, intanto i titoli per il Sole 24 Ore, l'apertura è sullo spread ai minimi dal 2011, questo è il titolo di prima pagina. E poi soprattutto è il PD con Renzi che dice non si vive di rendita a conquistare le prime pagine dei giornali. Il voto delle città agita il PD, così il Corriere della Sera. Per Repubblica PD vittoria e polemiche, Renzi va all'attacco, rendite finite per tutti. La Stampa, Comuni resa dei conti nel PD. Il Messaggero, Renzi al PD non si vive di rendita. Per il Fatto Quotidiano, Livorno resuscita Grillo, Renzi non si vive di rendita, questa è la frase più gettonata. L'Unità però ha un guizzo d'orgoglio dopo aver parlato ieri di ferita a Livorno, il titolo è 664 città, vi sembrano poche, solo le città dove ora governa il Partito Democratico. Per il Manifesto invece c'è la foto di Filippo Nogarin, e cioè l'ingegnere aerospaziale di 44 anni che ha conquistato col Movimento 5 Stelle Livorno, e il titolo è Il Marziano, si gioca molto anche sulla professione di Nogarin. per il giornale Renzi non è imbattibile, questo è il titolo di prima pagina, mentre Libero, soldi anche alle suore per far vincere il PD, è l'inchiesta sul Mose con i continui sviluppi in prima pagina di Libero. Parto però da che cosa? Parto dalla vicenda che coinvolge nuovamente Henry De Luca, intellettuale, scrittore, come scrive Libero, scrittore di riferimento del movimento NoTav. Ricordate Henry De Luca che fece un intervento sul sito dell'Huffington Post a dire in sostanza la TAV va sabotata. È legittimo sabotarla. Per quelle dichiarazioni Henry De Luca rischia il processo, per lui rinvio a giudizio con l'accusa di istigazione a delinquere, e questa è l'accusa pesante per quelle dichiarazioni. Sabotare la TAV, va a processo Henry De Luca. Lui fa un'intervista, intervistato da Ottavia Giustetti su Repubblica, pagina 21, non retrocede di un millimetro. Non sono stupito, me l'aspettavo, non voglio nemmeno essere assolto. Mi metteranno sul banco degli imputati, ci saprò stare, ma solo per difendere la mia libertà di parola. Così dice Henry De Luca, non mi riconosco in questo ruolo di scatenatore di eventi che mi vogliono attribuire. Diciamo che hanno utilizzato un trucchetto sofistico, già utilizzato nella scolastica medievale. La teoria è questa, post hoc ergo propter hoc, cioè dopo di questo e perciò in conseguenza di questo mettono in relazione causale due eventi che hanno solo una relazione temporale. Loro credono, dice Henry De Luca, che scoraggiando me scoraggeranno 100. Sono titolare di una piccola parola pubblica, quindi la difendo, non la uso a sproposito, non la ritiro dopo che qualcuno la contesta. Non sono come questi politici capaci di ritrattare il giorno dopo come se dovessimo tutti continuamente dimenticare. Sono le mie opinioni e le difendo. Tanto che a un certo punto Repubblica chiede a Henry De Luca, beh, ma sembra quasi che lei consideri più onorevole a questo punto una condanna che un'assoluzione. È così, risponde De Luca, non mi interessa essere assolto, mi interessa esclusivamente difendere la mia libertà di parola, semplicemente, e intendo a mia volta accusare di abuso e intimidazione chi mi ha formulato questa incriminazione. Per cui all'ultima domanda di Ottavia Giustetti, lei sempre convinto che la TAV debba essere sabotata? Ben inteso, risponde Henry De Luca, che dunque andrà a processo per istigazione a delinquere. Chi invece subirà un processo, nel frattempo si trova già in carcere, come sapete, l'ex ministro Claudio Scajola. Oggi La Stampa racconta con Francesco Grignetti in una pagina, pagina 15, i giorni in carcere di Scajola. Luigi Manconi, senatore, presidente della Commissione Diritti Umani, è andato a trovarlo a Regina Coeli, visita ispettiva, erano le 22.30, i detenuti erano per la maggior parte in pigiama, racconta La Stampa. Per le celle è corsa la voce dei parlamentari in giro e Luigi Manconi ha incrociato anche Scajola. Ci ha detto di trovarsi bene, di essere trattato con umanità dalle guardie e non avere rimostranze da fare. Sto bene, ha detto Scajola, così riferisce il senatore Manconi, anche se è stata dura all'inizio, 5 giorni di isolamento assoluto, poi quando mi hanno concesso il televisore le cose sono un po' cambiate, ora posso informarmi e vedere quel che accade. Da un mese vive in una cella da solo, è un piccolo lusso considerato il sovraffollamento delle carceri italiane, ma non si pensi a suite, dice Manconi, è una cella in dignitose condizioni di pulizia. Comunque Scajola non si è lamentato, dice non va male, in ogni caso finora mi ha visitato periodicamente il medico in carcere. Certo, racconta La Stampa, ben diversa dalla situazione del villone con vista mozzafiato sulle Alpi, piscina privata, sala biliardo e in garage una collezione d'auto d'epoca a cui era abituato Scajola a casa sua. I libri che legge, Viaggio dell'elefante di Saramago e Gesù di Nazareth di Ratzinger. Insomma, trovate tutti i dettagli di questa visita a Luigi Manconi a Claudio Scajola in carcere, raccontati dalla Stampa a pagina 15. Faccio invece un salto all'estero, anche se riguarda anche l'Italia, perché sapete che la Lega all'Europarlamento ha fatto un'alleanza con il Front National di Marine Le Pen. Solo che ieri c'è stato uno scandalo in Francia con polemiche e che con il fatto che per la prima volta Marine Le Pen ha dovuto prendere le distanze pubblicamente dal padre Jean-Marie Le Pen, fondatore del Front National. Perché? Perché Jean-Marie Le Pen ne ha combinata un'altra delle sue. In un'intervista realizzata per la verità da una militante del Front National e messa su il sito del Front National, poi è stata immediatamente rimossa dopo le polemiche, perché che cosa ha detto, cosa diavolo ha detto Jean-Marie Le Pen in questa intervista? Beh, la militante a un certo punto gli ha chiesto: che ne pensa di tutti quegli artisti che hanno attaccato il Front National dopo la vittoria alle europee, come Guy Bedos, come Madonna, come l'ex tennista Yannick Noah, o come Patrick Bruel, cantante e attore ebreo? E la risposta di Jean-Marie Le Pen è stata: la prossima volta faremo un'infornata. Ha usato fournée, questo termine, e il Corriere della Sera fa notare, non è casuale a proposito di un ebreo, insomma il termine è davvero dei peggiori, se non il peggiore che potesse usare. Le Pen contro Le Pen, Marine zittisce il papà per la frase antisemita, perché dopo questa frase ovviamente Marine Le Pen ha fatto togliere l'intervista. Ci sono stati esponenti del Front National a dire: forse dovrebbe andare in pensione Jean-Marie Le Pen. Lui allora se l'è presa a sua volta, dicendo, dando dell'idiota a chi gli ha detto di andare in pensione. Insomma, sta di fatto che Marine Le Pen, per il rischio anche di suscitare nuove clamorose polemiche, Jean-Marie a quel punto alla figlia ha detto: sei una traditrice, traditrice degli ideali del partito. Insomma, sono volati stracci all'interno del Front National, come racconta anche la stampa. Antisemita, conformista, scoppia la guerra dei Le Pen, figlia contro padre per le frasi razziste, in forse la svolta verso la destra rispettabile. Anche Repubblica la racconta così: guerra in casa alle Pen, il padre accusa la figlia, ti stai normalizzando, visto che Marine Le Pen dopo queste dichiarazioni sull'infornata, la prossima volta da fare nei confronti di chi critica e chi ha detto andiamo via se vince il Front National, ma in questa infornata c'era anche un ebreo, Marine Le Pen ha detto: le parole di mio padre sono un errore politico, io condanno l'antisemitismo, al che il padre si è risentito parlando di tradimento e di errore politico nell'allinearsi al pensiero unico. Chissà cosa ci sia di pensiero unico nel parlare di forni e di ebrei. Alessandro Milan, il Rocco Siffredi dell'informazione. E allora, le 7:34 minuti, l'analisi del voto delle amministrative tiene banco sui giornali. Con che cosa? Beh, Renzi ha detto, Renzi si trova in visita tra Vietnam e Cina e poi Kazakistan dall'estremo oriente, però ha commentato l'elezione dicendo: non si vive di rendita. La sensazione a raccontare i giornali è che, come ieri veniva già annunciato da alcuni quotidiani, Renzi voglia in qualche modo rimarcare la differenza, cioè abbiamo vinto dove si è presentata la nuova dirigenza del PD, tradotto i renziani, abbiamo perso invece dove c'erano i vecchi dirigenti del PD. Ecco che Carlo Bertini traduce tutto sulla stampa, pagina 3, con questo titolo: i renziani preparano l'attacco, hanno perso gli ex comunisti. Il leader reagisce alla sua maniera con gli amici che riescono a parlargli a migliaia di chilometri. Matteo Renzi sfodera una verve tagliente: ora non trasformiamo una vittoria in una seduta di autocoscienza tipica della sinistra. È vero, abbiamo perso Livorno e Perugia, anni fa abbiamo perso Bologna e poi l'abbiamo riconquistata. La verità è che abbiamo vinto in realtà dove non toccavamo palla, come al nord. Due mesi fa nessuno avrebbe scommesso che avremmo preso Pavia o Bergamo, ma abbiamo vinto pure a Cremona, nelle province del sud e del Piemonte. Insomma, un Renzi che dice: abbiamo vinto. Questo è un concetto di base. Se c'è un partito che sta bene è il nostro. Però certo, l'idea è questa: hanno perso gli ex comunisti. Le critiche di Bersani e Letta, il voto riapre le ferite del PD, è anche il titolo e l'analisi di Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, dove c'è un'intervista intervista a Lorenzo Guerini, vice segretario del Partito Democratico, renziano DOC, che a pagina 2 e 3 dice: non ci sono comuni che valgono di più, ora apriremo a nuovi protagonisti. Non è vero che il PD ha frenato, abbiamo vinto le elezioni. Questa è una frase che si sente da 80 anni, da sempre, magari un po' meno di 80 anni ovviamente. Comunque Guerini inizia così l'intervista: governavamo in 128 comuni sopra i 15.000 abitanti, ora siamo a 160. Nei capoluoghi passiamo da 15 a 20. Abbiamo strappato tre regioni al centrodestra, Sardegna, Piemonte e Abruzzo. E al che chiede Monica Guerzoni: ma non brucia la sconfitta di Livorno? Certo che brucia, ma il numero delle vittorie è più ampio. Lo dico con una battuta e con pieno rispetto per una storia che è patrimonio di tutto il PD. Abbiamo perso l'impero romano, possiamo ben perdere Livorno. Il tema adesso è rimboccarci le maniche per riconquistarla. Ma Livorno è il simbolo di una storia che voi renziani non sentite vostra? Non è che Livorno e Perugia non ci interessano, ma dobbiamo viverla laicamente, risponde Guerini. Il risultato del PD va letto nella sua complessità. Non mi permetto di banalizzare, ma dobbiamo fare i conti con una realtà profondamente cambiata. Gli italiani votano in modo libero e in alcuni casi contraddittorio. La rottamazione farà altre vittime, chiede il Corriere. Dove è necessario faremo dei cambiamenti con coraggio, aprendo il partito a nuovi protagonismi, a una nuova partecipazione. Così di fatto Guerini apre all'idea di quella che è definita brutalmente la rottamazione, tanto che Ilvo Diamanti traduce tutto in su Repubblica con questo slogan: il partito di Renzi fa meglio del Partito Democratico. Sapete che Ilvo Diamanti ha coniato proprio dopo le ultime europee questa idea, cioè ha vinto il partito di Renzi. È simbolicamente interessante questa analisi, visto che il segretario del Partito Democratico è lo stesso Renzi. Ma chi ha vinto queste elezioni, il PD o il PDR, si chiede Ilvo Diamanti, cioè il Partito Democratico o il Partito di Renzi? È il quesito che echeggia all'indomani dei ballottaggi delle amministrative, ultimo atto della competizione elettorale cominciata 2 settimane fa. Le europee infatti hanno fornito un risultato inequivocabile e hanno offerto al tempo stesso una chiave di lettura che ha condizionato quello che è avvenuto dopo, fino al risultato di ieri, con la tentazione paradossale di interpretarlo tutto in chiave interna, ponendo Renzi di fronte e in alcuni casi contro il suo partito. D'altronde l'esito del voto amministrativo, in particolare dei ballottaggi, tende a essere riassunto in alcuni casi di particolare importanza simbolica: Livorno, Urbino, Perugia, Riccione, città storicamente rosse dove il centro-sinistra ha perso, come a Padova dove governava da 10 anni. Ilvo Diamanti dice: lì dove c'è appunto lo storico partito comunista e poi Partito Democratico, il PD ha perso, si è vinto con il partito di Renzi. Esulta invece anche Grillo. Grillo parla di virus inarrestabile dopo la vittoria a Livorno, dopo la vittoria a Civitavecchia, dopo la vittoria anche plebiscito vero e proprio a Bagheria. C'è stato un trionfo dell'elettore, del candidato del Movimento 5 Stelle. Si parla di ciclone Nogarin. A Bagheria invece si è vinto col 69,7% da parte del Movimento 5 Stelle, con il candidato Patrizio Cinque di 28 anni. E il Corriere della Sera, pagina 5, fa un resoconto, oltre che un ritratto, di chi è questo esponente del Movimento 5 Stelle. Certo, qualche chiaroscuro lo pone Repubblica sulla vicenda Grillo, perché a pagina 8 Tommaso Ciriaco racconta: Grillo esulta ma scarica Pizzarotti. Sarebbero davvero ai ferri corti, la vicenda è un pochino lunga e annosa, ma questa volta sarebbero davvero arrivati a una conclusione drastica quelli del Movimento 5 Stelle, soprattutto con il placet di Casaleggio. hanno detto e dicono di Pizzarotti cerca di ostacolarci, vuol costruire un gruppo di potere autonomo, è libero di farlo ma lontano dal Movimento 5 Stelle. Ecco perché Tommaso Ciriaco su Repubblica racconta il risultato possibile è solo uno, buttare fuori il sindaco dal Movimento. Ormai ci siamo, così dice Beppe Grillo, ha paralizzato ogni spinta dal basso, così direbbe ai suoi, e quindi l'accusa più grave che renderà possibile indire un referendum su Pizzarotti e inchiodarlo sulle mancate promesse sull'inceneritore. Insomma, secondo Repubblica, la vicenda Grillo, Movimento 5 Stelle e Pizzarotti è ormai al capolinea. L'amarezza invece è nel centrodestra, il centrodestra che farà la fine del salame, questo è il titolo e il senso dell'editoriale di Vittorio Feltri in prima pagina del Giornale, perché come il salame, fetta dopo fetta, verrà tagliato riducendo al minimo la coalizione. Questa è l'immagine dal salamotto generale, cioè Silvio Berlusconi, ora ognuno prende una fetta e finirà per essere mangiato tutto. E sarà sempre più corto, sempre più vicino al culo, così è l'immagine utilizzata da Vittorio Feltri, un po' impietosa nei confronti del centrodestra. Centrodestra che clamorosamente ha perso anche a Pavia, dove al primo turno Cattaneo l'aveva quasi spuntata già al primo turno col 50%, e poi incredibilmente c'è stato il sorpasso del candidato di centrosinistra. Cattaneo, che è colui che è definito il sindaco più amato d'Italia, anche nel sondaggio che c'è stato recentemente del Sole 24 Ore, tanto che Silvio Berlusconi racconta a pagina 8, Tommaso Labate, e sono sul Corriere della Sera, ha reagito proprio così: ma Cattaneo era il sindaco più amato d'Italia e ha perso così. E questa è la reazione di Silvio Berlusconi, che tra l'altro racconta e dice il Corriere della Sera ha già fissato un incontro con Renzi, vuole trattare in prima persona la questione delle riforme, e il Corriere della Sera cita anche una data, esattamente martedì prossimo 17 giugno a Roma, un nuovo incontro Berlusconi-Renzi. Staremo a vedere se è così. Intanto l'amarezza di Cattaneo è sicuramente giustificata, dice: c'è bisogno di un partito, Silvio mi ha chiamato, è dispiaciuto, anche lo stesso Cattaneo non sa capacitarsi. Il giornalista più amato invece d'Italia è Mauro Meazza, che saluto, siamo sempre sondaggi del Sole 24 Ore. Quindi ti ringrazio, non credo di meritare tanto, onestamente penso che quantomeno dobbiamo dividere il podio tu e io. Va bene. Di questa predilezione. Senti, stai leggendo L'elogio della pazzia di Erasmo da Rotterdam? Stai leggendo? No, perché no, sto leggendo i giornali, che più o meno. Però vedi che c'è continuità nelle due cose, infatti, perché oggi con il Sole 24 Ore c'è appunto questo prezioso volumetto, e insieme parliamo anche ad esempio di Imo e Tasi. Abbiamo fatto un conticino che dovremmo sfondare il tetto delle 200.000 aliquote. Se le aliquote facessero punti di PIL, devo dire che saremmo lanciati con una crescita cinese dei bei tempi. Guarda, domani segnati questo, Alessandro. Sì. Domani diamo un inserto di 16 pagine, tutte le regole su IMU e TASI, perché il 16 giugno si avvicina, quindi. Esatto, il 16 si avvicina, tra l'altro attenzione perché questa settimana c'è il venerdì 13, settimana prossima c'è un martedì 17, quindi vediamo di schivare le date che potevano essere poco favorevoli. Però venerdì c'è in agenda un importante Consiglio dei Ministri, lo riferiamo oggi sul Sole 24 Ore. Dovrebbe arrivare un ulteriore sconto su IRES e IRAP, speriamo, un decreto competitività nuovo per rilanciare le vicende italiane, le vicende aziende italiane. E tra l'altro, tu che ti occupi di condominio, scusa, tra l'altro non c'entra niente, sai che si può fare un sito di condominio? Tu che studi sempre le pagine di condominio con attenzione. È esattamente ciò che pensavo di fare. Lo so, però allora sappi che il garante della privacy ti ha dato delle indicazioni. Dove trovo questa informazione? Sul Sole 24 Ore di oggi, proprio nella pagina del condominio, ci sono le indicazioni del garante della privacy sul sito di condominio, che si può fare. Si può fare. Quindi mi stai gentilmente mettendo alla porta, dicendo no, ma non ti ho mica detto di andare a zappare, ti ho detto di fare, dedicarti il... No. E comunque comunque voglio dire, insomma, sarebbero sempre lavori nobili rispetto al nostro. Beh, caro Alessandro, certamente sarebbero almeno dei lavori rispetto al nostro. Anche questo è vero, ma è arrivato già il mio momento, perché vedo che il tempo fugge, non si resta un'ora, come diceva il poeta. Esatto, è arrivato il tuo momento, sì, volevo dirtelo così. Allora ricordati dell'oggi della pazzia e domani soprattutto ricordati dell'inserto IMU e TASI. Traffico. Alessandro Milan, il sartiapone dell'informazione. Vabbè, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico sulla viabilità, ma la recupereremo alle 8:15. State tranquilli, state sereni. Allora, continuano ovviamente le rivelazioni sulla vicenda del MOSE. Ieri c'è stato un consiglio comunale, anche abbiamo sentito un pochino così concitato, con qualche contestazione, era anche abbastanza immaginabile. 3 ore dai magistrati, l'ira di Orsoni sul PD. Questo è il titolo più interessante, forse. Marco Imarisio, siamo sul Corriere della Sera, pagina 10, perché ieri Giorgio Orsoni è entrato in procura alle 11 per uscirne 3 ore dopo, proprio quando stava per cominciare la finta rissa, la definisce così Imarisio nel suo ormai ex consiglio comunale. Intanto cosa dice di questo interrogatorio? Che l'ex sindaco, ormai ex sindaco, lo definisce così Imarisio, considera chiusa la sua esperienza politica. Quello che gli interessa è soltanto però un rapido ritorno alla rispettabilità, camminare a testa alta per poter ricominciare il suo lavoro di amministrativista. Orsoni è furioso, e questa è la seconda notizia data dal Corriere, furioso con il PD veneziano, non solo perché a suo parere non gli avrebbe concesso neppure il beneficio del dubbio, ma all'origine delle sue disgrazie c'è il finanziamento illecito da 450.000 euro e ci potrebbe essere qualcuno che sa ma non dice. Insomma, diciamo che il Corriere della Sera dice due cose. Orsoni appunto si considera ormai ex anche come sindaco, il che prelude probabilmente alla ipotesi addirittura di dimissioni, e poi che la sua carriera politica è ormai finita. Certo, però continuano le indiscrezioni sui nomi, torna appunto nei verbali prepotentemente oggi il nome dell'ex ministro Lunardi, come racconta Andrea Pasqualetto a pagina 11 del Corriere della Sera. La testimonianza è di Baita, Pier Giorgio Baita, chiarisce tutto. Il PM non bada ai preamboli, chiede: sono mai state versate somme di denaro direttamente a Gianni Letta? E Baita risponde: dunque, io non ho conoscenza di somme di denaro, ma nel consorzio è sempre circolata la voce tra soci che l'incarico di progettista unico a Technital del gruppo Mazzi servisse a questo scopo. Poi devo dire che dal dottor Letta abbiamo avuto due richieste. La prima, modesta, di dare un subappalto a una certa impresa di Roma, piccola, Cerasi e Cerami, alla quale abbiamo dato a tre porti un subappalto praticamente senza ribasso. La seconda richiesta, farci carico dell'esborso, mi pare inizialmente di 1 milione, poi di 500.000 euro, che era la somma che la Corte dei Conti aveva chiesto all'ex ministro Lunardi per una questione riguardante l'ANAS. Praticamente noi abbiamo dato a Lunardi 500.000 euro senza chiedergli il ribasso sulla tariffa di un lavoro che abbiamo dato alla sua società, la Rocksoil, e che riguarda la A27 Pian di Vedoia, Caralte di Cadore. Qui viene fuori il nome di Lunardi, ma appunto Gianni Letta è un altro nome molto molto importante, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio col governo Berlusconi, che viene fuori nei verbali. Mose spunta Gianni Letta, era il direttore del traffico, indicava le ditte da scegliere. Questo è il titolo di Repubblica a pagina 12, mentre il Fatto Quotidiano a pagina 8 e 9 tira fuori altri nomi, tra questi Niccolò Ghedini, l'avvocato di Silvio Berlusconi, nonché parlamentare. Mose, l'uomo nero di Ghedini e la ditta Letta e Matteoli. Insomma, ce n'è da leggere e ce n'è ovviamente da farsi idee di questa storia, che evidentemente è ancora solo agli inizi dei racconti. Invece, se non avete visto il video, guardatelo, è un video che trovate facilmente in rete, su tutti i siti, della salvataggio che è finito in tragedia di alcuni migranti avvicinati da una nave maltese, e a un certo punto nel trasbordo degli immigrati dal barcone alla nave qualcosa va storto e la nave si ribalta e in tre muoiono, ma ci sono anche due dispersi. Così muoiono i migranti a un passo dalla salvezza. Oggi Domenico Quirico sulla Stampa racconta in prima pagina, proprio con questo titolo, morire a un passo dalla salvezza, l'ultimo inganno di un mare nemico. Ecco ancora di nuovo lo scandalo universale di queste esistenze che vanno alla morte guardando la vita, uomini, donne, bambini di terra e di deserto, navigatori loro malgrado, eroi della sopportazione come Ulisse, ma loro senza nome e senza gloria. In quanti modi possono morire i migranti nel Mediterraneo, onnipresente e detestato? Mare di burrasche improvvise, naufragi sconciamente beffardi, creditore rancoroso e definitivo, addensati sulle murate lungo i parapetti, le mani aggrappate alle corde, ai bordi, a guardare di fuori con occhi monotoni e di tanto in tanto gesti di incomprensibile eloquenza, gesti sprofondati in una prospettiva senza suono come in un film muto. Sembrano i passeggeri di questi viaggi davvero come il lento remeggio delle erbe lunghe del fondo del mare, un mondo disperato di esser nato. Muoiono travolti da venti improvvisi di tempesta o traditi dai loro vascelli marci, da un motore che si incendia, da un movimento troppo brusco, o come Domenica, quando il loro battello ormai sembrava arrivato alla fine dell'Odissea, avvistato e preso a traino da una grande nave pietosa. La piccola barca ormai rulla abbondantemente, il rullio più innocente e cordiale del mondo, che non fa più paura, pieno di scricchioli familiari, di rintocchi in sordina. È bello questo dolce mare pallido, quasi una stoffa tinta, e invece la morte beffarda, la cappa della dannazione. Non ci sono per loro mai avventure a lieto fine, come se la provvidenza li avesse guidati esattamente a quel punto per indicare il suo dispettoso potere. Uno dei migranti con cui ho attraversato il Mediterraneo mi raccontò questa attrazione terribile che esercita su di loro l'ultimo balzo. Mi ricordo come guardavano i partenti, i loro sciancati battelli. Nulla è cambiato, lo sfasciume degli scafi parlava delle averie, delle fatiche sopportate sulle strade del Mediterraneo antiche come il mondo e nuove, coi passaggi che lo solcano, e del viaggio che rimaneva da fare. Fragili e resistenti, erano volte con fierezza all'arco come l'acqua che dominano e dove pure sono sperdute. Questo è Domenico Quirico, con la sua prosa sempre molto ricca, racconta questa tragedia dell'ultimo inganno di un mare nemico, questi migranti morti davvero mentre stavano per essere trasbordati, la loro nave, la loro imbarcazione si è rovesciata prima di salire a bordo. Vabbè, siamo al momento conclusivo. Anche oggi c'è l'articolo più inutile scovato sui giornali. Anche oggi vince il giornale che veleggia ormai verso una sicura vittoria. Attenzione, Sallusti, stiamo preparando la coppa della carta costa, la generazione single, quella metà del mondo che non si sposerà mai, spaventati da crisi e dai costi della festa. Il 50% dei ventenni non si sposerà. Ma chi se ne... Vabbè, andiamo al giornale radio, dai. 24 mattino. Alle 8:20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Oggi Ilvo Diamante su Repubblica scrive che ai ballottaggi di fatto ha vinto il partito di Renzi e ha perso il Partito Democratico. Forse un'originale lettura, visto che il segretario del PD è lo stesso Premier, ma lettura anche forse non lontana dalla realtà. Non c'è quotidiano che non dia questa immagine, un PD che sale da 120 a 164 comuni controllati da un proprio sindaco, ma ci si chiede però perché abbia perso il Roccaforti, storicamente rosse, Livorno in testa, passato al Movimento 5 Stelle, ma anche Perugia, passato a Forza Italia, Urbino, Padova, che va alla Lega. Dice Renzi, non si vive di rendita, è forse questo il preludio di una nuova rottamazione? Intanto lo voglio chiedere al neo sindaco di Bergamo, Giorgio Gori del PD, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Complimenti ovviamente, arriva una rottamazione a questo punto? Ma no, adesso bisogna cambiare tante cose, ma non c'è bisogno di mandare a rottamare quel che c'era prima. E comunque rispetto all'interpretazione di Diamanti, io per quello che posso dire di Bergamo dissento, perché qua secondo me ha vinto invece tutto il Partito Democratico, che ha saputo lavorare insieme, superando anche le divisioni che avevano contraddistinto un po' la dialettica interna del partito nei mesi, negli anni scorsi. Anzi, direi che proprio questa è la ragione della vittoria. Sa cosa dice il vice segretario del PD Guerini, intervistato oggi dal Corriere della Sera, tra l'altro un renziano doc? Dice: abbiamo perso l'impero romano, possiamo ben perdere Livorno, non dobbiamo essere attaccati ai simboli, la riconquisteremo. Ma a me pare che abbia perso quel partito, il partito laddove non è stato capace di rinnovarsi, di cambiare, cioè dove è rimasto legato a schemi del passato, dove invece il PD è nella collaborazione tra anime diverse, tra storie diverse, capace di essere un partito moderno, li intercetta all'istanza di cambiamento che c'è nella popolazione. Vede che però anche lei lo dice, laddove non si è cambiato si è perso, cioè il vecchio modo di vedere la politica del PD in qualche modo si legge questa... Ma aveva già perso alle politiche dell'anno scorso, come sappiamo, e difficilmente avrebbe preso il 40% dei voti alle europee. E quindi cosa vuol dire? Quando Renzi torna dal giro in Asia si parla appunto di nuovi dirigenti. Sì, ma non è un'altra cosa, cioè Matteo Renzi è il segretario del Partito Democratico, eletto con il 70% dei consensi al congresso, poi possono resistere forse delle enclave un po' legate al passato, ma la grande massa dei sostenitori del Partito Democratico si ritrova in questa leadership, secondo me. Secondo lei il PD ha vinto le elezioni? Si può dire questa frase usa? Assolutamente sì. Guardi, se c'è un comune dove forse plasticamente ha perso il vecchio PD è Civitavecchia. Infatti le voglio presentare, voglio salutare il neo sindaco di Civitavecchia del Movimento 5 Stelle, Antonio Cozzolino. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Ovviamente complimenti anche a lei. Lì lei ha sconfitto Pietro Tidei, due volte deputato, tre volte sindaco di Civitavecchia. Vuol dire che c'è la voglia di rinnovamento in questo caso, scegliendo un nuovo movimento rispetto al vecchio PD? Beh, sicuramente, mi sembra evidente che chi rappresenta la vecchia e il vecchio modo di fare politica ormai abbia fatto il suo tempo, almeno da noi. Da Civitavecchia, ma anche da Bagheria e dalla più celebre forse come città, Livorno, conquistata dal Movimento 5 Stelle, secondo lei può nascere quell'idea del vinciamo poi che avete lanciato dopo le europee, vi eravate anche un po' spinti avanti a dire vinciamo adesso, invece no? Guardi, sicuramente sì, comunque il dato delle europee secondo me può essere visto come il consolidamento della base del Movimento 5 Stelle, anche perché il 40% del PD non è un dato reale, a meno che non si prenda in considerazione il fatto che il centrodestra italiano ha trovato un nuovo leader. E cioè? Matteo Renzi. Perché dice il centrodestra? Questa è una provocazione. Sì, è una provocazione, è una battuta, però è un dato di fatto comunque che molti dei voti di Forza Italia proprio alle europee si siano spostati sul PD. Quindi evidentemente quel modo di fare politica piace molto anche a chi ieri si rivedeva in Berlusconi. Cioè quale sarebbe il modo di fare politica dell'inciuccio, immagino? Ma quello di badare più alla forma che alla sostanza. Io non vorrei parlare addirittura di inciuccio, però insomma quello il classico modo, non è detto che sia incarnato da un giovane poi debba essere per forza di cose innovativo. Insomma qua Giorgio Gori capisce che l'accusa è quella. Al neo sindaco di Civitavecchia vorrei dire che a Bergamo, dall'analisi dei flussi fatta ieri dagli istituti demoscopici, risulta che la differenza tra me e il mio avversario, che era il sindaco uscente rappresentante del centrodestra, l'hanno fatto proprio i voti del Movimento 5 Stelle, che non è arrivato al ballottaggio perché ha raccolto poco meno del 9% al primo turno, e una buona parte di questi elettori al secondo turno hanno votato per me. Quindi... Io comunque mi riferivo al dato delle europee, che come lei ben sa è una competizione elettorale che ha tutta un'altra visione, un altro aspetto. Io credo che alle europee il risultato del Partito Democratico abbia raccolto il voto di tutti quelli che avevano una visione positiva dell'Europa, costruttiva, pur nella necessità di cambiarne un po' gli equilibri. e questo secondo me è andato anche un po' al di là dei confini dello stretto partito. Però Gori, torna la questione vecchia, annosa, ben risolta, se Renzi sia davvero un uomo di sinistra. Non so quanto ancora questo dibattito è appunto possa appassionare gli italiani, ecco, però capisce che gira e rigira e si ritorna sempre lì, no, con queste discussioni. Ma mi sembra un po' delle discussioni un po' di retroguardia, cioè credo che chiunque abbia uno sguardo un po' ampio riconosce che la sinistra in Europa, ma anche dall'altra parte dell'Atlantico, è questa cosa, è una sinistra moderna, riformista, con forti componenti liberali, e del resto dove questo non è, e dove invece resta arroccata su vecchi schemi, è una sinistra perdente. Siccome credo che l'obiettivo della politica sia quello di affermare i propri valori, che certamente sono quelli di sinistra, guadagnando il consenso anche di chi la volta prima magari non aveva votato per te, a me pare che questo sia dimostrato con risultati positivi da Renzi e dal nuovo PD. E per questo, secondo lei, non è un caso che, voglio dire, le storiche roccaforti da Livorno, ma Perugia, Urbino, anche Padova, lì, proprio lì, il PD abbia perso? Io non conosco così bene il Partito Democratico di queste città, però insomma mi sembra un'interpretazione che potrebbe avere un fondamento, sì. Io ho sempre invece avuto questa idea del Movimento 5 Stelle, vorrei chiederlo al sindaco Cozzolino di Civitavecchia, e cioè che il Movimento 5 Stelle, a mio parere, è un movimento che se amministra le città può essere molto più efficace, le città oppure le regioni, dove è molto più efficace rispetto alla politica fatta in Parlamento, che è fatta in modo diverso, è fatta senza poter incidere quotidianamente sulle questioni, mentre un sindaco, un consiglio comunale decide su cose pratiche che riguardano i cittadini. Lei è d'accordo con questa lettura, cioè che il Movimento 5 Stelle è un movimento più radicato a livello locale che nazionale? Ma questo, però, per decidere su una cosa del genere bisognerebbe vedere il Movimento 5 Stelle al governo a livello nazionale, perché dove amministra le città fa bene. A livello nazionale, diciamo, al potere ancora non l'abbiamo visto, quindi non penso che possa essere un termine di paragone. Credo che non lo si vedrà neanche mai, se voi non farete mai nessun tipo di alleanza, questo, come si può ottenere il 50% di o comunque la maggioranza assoluta di voi? Se non si fanno alleanze non si può. Guardi, stavano facendo proprio il PD insieme a Berlusconi, stava mettendo in piedi una legge elettorale che poi è stata stoppata, perché probabilmente avrebbe dato la possibilità al Movimento 5 Stelle di andare al governo. Se ricordo bene, l'Italicum prevedeva una sorta di ballottaggio tra le prime due forze che fossero state espressione del voto al primo turno, e poi si andava al ballottaggio. Quindi quello era tutto da vedere, guarda caso quel tipo di legge sarà stoppata. Senta, sindaco Cozzolino, ho letto che Grillo l'ha chiamata. Sì, vi siete. Sì, sì, sì, sì. Ma è vera questa cosa che l'ha confusa con Nogarin? No, era una battuta. Era una battuta. Cioè, la chiamata che gli ha detto: lei è Nogarin? Ah, no, lei è. Sì. Poi ha realizzato, data la battuta, ha realizzato che effettivamente era lui. Ah, ecco. All'inizio pensavo che era uno scherzo, invece effettivamente era lui. Ma non mi ha detto niente di particolare, mi ha solo fatto in bocca al lupo. Mi ha raccomandato di tenermi vicini gli attivisti, che saranno quelli che poi effettivamente mi daranno una mano. E ha ragione, insomma, la nostra forza è il gruppo. E perché non è facile? Mi dica la prima cosa che farà? Qualcosa ho già detto sui giornali, la prima cosa sulla quale sarà impegnato. Dobbiamo mettere mani alle partecipate, al problema della raccolta differenziata, che non è ancora partita in maniera organica in tutta la città, e poi all'acqua. All'acqua. E vorrei, intanto la ringrazio, Giorgio Gori. Cosa deve fare Renzi in concreto quando torna per non rottamare, ma diciamo modificare e rilanciare il Partito Democratico laddove ha perso? Insomma, secondo me Matteo deve semplicemente andare avanti sulla sua strada. Poi i risultati in qualche modo comportano dei cambiamenti. Il Partito Democratico è cambiato a livello nazionale, lo ricordavo prima, dopo la sconfitta del febbraio del 2013, da lì è cominciata, diciamo, la nuova era. Molti si sono resi conto che quella strada non portava lontano, e credo che questo possa avvenire anche su base locale. Per esempio, deve incontrare, questa è l'ultima domanda, Silvio Berlusconi? Oggi il Corriere racconta che martedì prossimo 17 ci sarebbe già la data per il nuovo incontro, per mettere appunto un nuovo piano sulla legge elettorale. È giusto incontrare Silvio Berlusconi? Io credo che ciò che serve per portare a casa una buona legge elettorale va fatto, compreso incontrare i rappresentanti delle forze più importanti del Parlamento. E quindi va fatto. La saluto e la ringrazio. Ah, ho visto che ha cantato Bella Ciao. Non ha avuto nessuno. Era molto tardi e si era bevuto un po'. Diciamo. Ah, ecco, e questo è il motivo per cui l'ha fatto, no? Perché effettivamente non, dalla storia anche sua personale non me lo sarei aspettato. Però sapevo bene le parole. Sapevi bene le parole, no, va bene, va bene. La ringrazio Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, insieme ad Antonio Cozzolino, sindaco di Civitavecchia. Noi però abbiamo scelto, dopo la pubblicità andremo lì, e voglio ricordare anche il numero per i vostri interventi, 800 24 00 24, se volete intervenire, se volete dire qualcosa, qualche considerazione che vi è, che vi hanno suscitato questi ballottaggi. Vogliamo raccontare anche un'Italia nuova che cambia con l'elezione e le novità che sono spuntate da Casal di Principe. Casal di Principe che ha un nuovo sindaco, che è lo stesso sindaco che c'era 20 anni fa quando fu ucciso Don Diana. Insieme al sindaco avremo anche ospite l'attore protagonista di Gomorra, la serie che proprio oggi si conclude su Sky, Ciro l'Immortale, così è conosciuto come protagonista della fiction al secolo in realtà, Marco d'amore. 24 mattino. Quando sono le 8:39 minuti, anzi 8:40 minuti in questo istante, allora, quando Don Beppe Diana 20 anni fa fu ucciso dalla camorra, era il 19 marzo 94, Don Beppe Diana, Casal di Principe, era un uomo di chiesa che si batté contro la camorra. Casal di Principe aveva un sindaco, si chiamava Renato Natale, medico volontario, iscritto all'associazione Libera di Don Ciotti. Il primo sindaco di Casal di Principe ad aver posto come priorità assoluta la trasparenza, la lotta alla camorra. 20 anni dopo, Renato Natale è stato rieletto sindaco. Quando è stato eletto sindaco, gli hanno fatto questa domanda. La parte non sana di questa città, che messaggio vogliamo mandare alla parte non sana di questa città? Ma vaffanculo! Insomma, ha risposto così. Io non so se questa risposta è una risposta che può piacere a un attore che voglio salutare, Marco D'Amore. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Allora, Marco D'Amore è conosciuto, è inutile negarlo, forse lei creerà anche qualche crisi di identità a questo punto, come Ciro l'Immortale, protagonista della fiction Gomorra, che tra l'altro proprio questa sera su Sky vivrà l'attesissimo finale, no? Gli ultimi due episodi sta avendo successo clamoroso. D'Amore, condivide l'idea di un sindaco che dice, insomma, vaffanculo ai casalesi di fatto? Ma come dire, non ne faccio un problema linguistico, mi interrogo piuttosto sui tempi che viviamo e se un sindaco arriva ad esternare così magari la propria frustrazione, il proprio dolore, è l'indice che c'è un malessere oramai profondo. Tra l'altro lei è attore di Caserta, nato e cresciuto dunque in quei territori che la fiction racconta in maniera molto reale, anche molto cruda. Ecco, ci sono state proprio molte polemiche su questo. Io stesso che la vedo, sono milanese di nascita, di crescita e di sono cresciuto qui. Insomma, noto proprio questa totale crudeltà, questa mancanza di persone del bene raccontate. È uno spaccato di Gomorra raccontato dal punto di vista di Gomorra e nient'altro. Perché questa scelta? Ma questa scelta fa molto clamore nel nostro paese, dove siamo poco abituati, secondo me, a raccontare le cose attraverso un punto di vista che sia magari anche netto, deciso. L'intento e degli sceneggiatori e di Roberto Saviano e di Stefano Sollima, che è un po' lo showrunner del progetto, era quello di indagare la criminalità attraverso gli occhi dei criminali. Se lei immagina questo, il campo visivo si restringe, perché queste sono persone che non contemplano la società civile nelle forze dell'ordine, quindi per forza di cose non si possono vedere nel nostro racconto. Non si possono vedere. Un racconto molto chiuso. È stato difficile entrare in quel personaggio di Ciro l'Immortale? È stato un lungo viaggio dal punto di vista, come dire, dell'attore, anche molto bello e affascinante. Io ripeto spesso che ho vissuto un grande cortocircuito, perché sono anche un cittadino dei luoghi, come dire, distrutti da Gomorra, e quindi sentivo questa vertigine e mi faceva molto male. Però ho ritenuto attraverso il mio lavoro di poter dare un piccolissimo contributo a quello che è il racconto della mia terra. No, no, ma infatti io devo dire che è un consiglio che do, quello di guardarlo, non tanto per fare una bieca pubblicità, insomma, non, quello non mi interessa, ma perché è uno spaccato, infatti sta avendo un successo clamoroso. Tra l'altro noi abbiamo raggiunto il sindaco di Casal dei Principi, Renato Natale, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, sindaco, perché noi abbiamo mandato in onda quel suo vaffanculo che lei ha mandato ai casalesi? In verità è un'espressione, insomma, che non è mia solita e che mi è uscita perché stavamo in un momento di grande emozione con i risultati che arrivarono, che erano arrivati. C'è un giornalista che insisteva nel farmi delle domande insistenti, tra cui cosa diciamo a quello che resta del malaffare, e io ho chiesto a coloro che erano presenti, a tutti gli amici cittadini, molti di loro hanno fatto il gesto del dito medio alzato, io l'ho tradotto in modo spontaneo in questo modo. Lei 20 anni fa era sindaco quando fu ucciso Don Diana, fu il primo, uno tra i primi a vedere il corpo di Don Diana, e da quell'esperienza ricordo che lei disse: io non farò mai più politica, è così? No. Comunque le è rimasto, diciamo, questa profonda ferita che è rimasta anche all'interno del paese. Perché ha deciso di tornare dopo 20 anni a fare politica? Ma io in verità non ho mai smesso di fare politica, anche se la politica si può fare in modi diversi, a volte nelle istituzioni, a volte fuori. Sono stato già candidato altre 2 volte a candidatura sindaco nel corso di questi 20 anni, bocciato dall'elettorato, ma ho continuato le attività nel volontariato, ho costituito l'associazione Libera qui, il Comitato di Indiana, abbiamo continuato a fare politica attraverso il mondo delle associazioni. Adesso io pensavo di avere una età, 64 anni, che non era più cosa, ma circa 1000 cittadini lo hanno richiesto attraverso un documento scritto e ho dovuto accettare. Ho affrontato questa sfida, ma via via che passavano le settimane, i tempi, la partecipazione dei cittadini, la vicinanza dei cittadini mi dava sempre più fiducia e speranza, più forza per continuare. Senta, qua ai nostri microfoni abbiamo anche Marco D'Amore, no? Il protagonista di colui che è Ciro l'Immortale nella fiction Gomorra. Lei la vede, sindaco? No, purtroppo sono riuscito a vedere soltanto qualche rara puntata, ma non riuscito. Ha sentito il clima, anche le polemiche che ci sono, le discussioni sulla rappresentazione della sua terra, no? Attraverso questa fiction. Che ne pensa? È qualcosa che fa bene, è giusto, fa male oppure al paese? Che ne pensa lei? Quindi non saprei dire in modo complessivo, ma diciamo che quando c'è una rappresentazione di una realtà, questa rappresentazione bloccata e fermata soltanto su uno degli aspetti, questo può provocare qualche problema, perché c'è sempre chi tra la gente, insomma, si fa in qualche modo affascinare anche la figura del male. E questo è capitato con altre, almeno sì, con altre fiction, sì. Questo non l'ho visto, non so. No, secondo me non il mio parere personale, non può capitare in questo caso, e vorrei chiedere conforto anche a Marco D'Amore, perché talmente produce una tale ansia quel racconto, produce una tale sensazione di opprimente quasi, perché uno è sempre gli viene sempre sbattuto in faccia per quell'ora, quelle 2 ore, qualcosa di negativo, di violento, di aggressivo, o no, Marco D'Amore, che non, è impensabile che possa attrarre in qualche modo, suscitare fascino. Forse è questo il contrasto sul quale avete giocato e che volete dare. Infatti, come dire, spero che il sindaco abbia la possibilità col tempo di poterla vedere, e si renderà bene conto che, come dire, l'empatia rispetto al racconto e ai personaggi che descriviamo è impossibile. Anzi, io in tempi non sospetti feci una predizione che purtroppo si è avverata, cioè dissi che molte persone invece ci avrebbero odiato, non riuscendo a fare un distinguo tra il ruolo e l'attore, e così è stato, perché ci siamo presi noi, come dire, il carico dell'odio della gente. Tra l'altro io nel ringraziare e salutare Marco D'Amore, ricordo questa sera appunto su Sky le ultime 2 puntate, non so se ci saranno delle sorprese, certo l'ultima cosa al mondo che farà è quella di svelarcele, so che però la fiction andrà all'estero, è già stata comprata, so che ci sarà anche una seconda edizione. Sì. Una curiosità che però mi devo togliere, visto che ho l'opportunità di chiederle, è questo: ma io quando l'ho vista ho detto, ma lei è uguale a Roberto Saviano? Cioè, nel senso, è uguale a Roberto Saviano, nel senso che si è tagliati i capelli, e sembra uguale, e la cosa, come dire, stride e attira, è un qualcosa di incredibile, è casuale questa cosa? è casuale, ed io rispondo sempre con una battuta dicendo che io sono molto più bello di Roberto. Vabbè, l'ho detto anche a lui, quindi. E quindi questo va bene. Intanto io la ringrazio ovviamente, in bocca al lupo a grazie Marco a D'Amore, voi, cioè Ciro l'immortale, che questa sera nelle ultime due puntate di Gomorra vedremo come andrà a finire. Chiedo a Renato Natale ancora un attimo di pazienza, ci sono le informazioni sul traffico, ancora un paio di domande da farle sulla questione seria e di come si può contrastare la criminalità in una terra come Casal di Principe. Siamo con Renato Natale, sindaco, neosindaco di Casal di Principe, 20 anni dopo il primo mandato. Renato Natale, le chiedo quanto è valido ancora il messaggio di Don Diana nelle terre dei casalesi? È sempre valido, non nelle terre. Intanto le pregherei di cominciare ad usare il termine casalese nella sua accezione vera, cioè che il nome di un popolo non è il certo, nome ma no, certo, certo. Quindi diciamo nella terra di clan. E il messaggio di Peppe è stato fortissimo ed importantissimo per portarci lungo un percorso che è durato 20 anni, che ci ha portato ad oggi a questo straordinario risultato. Resta ancora valido perché dentro ci sono messaggi morali indirizzati in particolare anche al mondo politico, al mondo istituzionale, che con i suoi atteggiamenti, i suoi comportamenti molto spesso ha favorito la crescita di una cultura prima e di un'organizzazione. Ma è poi per questo, è per questo che lei ha detto riparto proprio da lì, cioè riparto da Don Diana. Certo, certo, io anche per ricordare un'altra figura importante che è morta nel 94, che è morto dopo Peppe Diana, Massimo Troiso, che se cominciamo da tre qualche cosa l'avevamo già fatto. Cominciamo dal suo messaggio e ho dedicato la vittoria a lui, ma a tante altre vittime della Camorra e tante persone che hanno resistito e lottato e sono morte qui in questo territorio, in questa terra, per combattere la criminalità organizzata. Allora, da loro questa vittoria. Le faccio sentire, sindaco, e faccio sentire a tutti gli ascoltatori ciò che Roberto Saviano ha detto dopo la sua elezione ieri. L'elezione a sindaco di Renato Natale è qualcosa davvero di incredibile. Una parola che viene pronunciata spesso, questa incredibile, cioè non credibile, oltre ogni credibile, ma questa volta davvero si pronuncia il suo significato più forte. Non era pensabile fino a qualche anno fa una cosa del genere. Perché, sindaco, è incredibile e non era pensabile fino a qualche anno fa, dice Saviano? Ma perché la struttura criminale, l'occupazione militare del territorio era forte, in qualche anno, stiamo parlando di 5-6 anni fa, poi l'intervento della magistratura, delle forze dell'ordine, ma anche l'intervento del libro di Saviano e della sua presenza qui a Casal di Principe ha provocato e ha determinato una destrutturazione di questa organizzazione criminale. La gente si è sentita all'improvviso libera, libera di poter esprimere il proprio voto, la propria volontà. Una signora anziana, nell'uscita dalla cabina elettorale, alla domanda del figlio, allora votato, ha detto sì, ah, finalmente mi sono sentito di poterlo fare in modo del tutto libero. E questo è quello che è avvenuto. Mi dica in conclusione come si sconfigge o si contrasta concretamente da sindaco la criminalità organizzata. Facendo semplicemente il proprio dovere, non abbiamo bisogno di fare delle battaglie, delle guerre, abbiamo bisogno semplicemente di svolgere il ruolo, la funzione istituzionale nel modo più corretto, trasparente e partecipato che sia possibile. Nel fare questo si dà fiducia alla gente e si fa il vuoto intorno ad organizzazione criminale o a potentati di qualsiasi tipo. Le fa piacere che Raffaele Cantone, che è un magistrato che ha combattuto molto anche la Camorra e i casalesi, ora sia capo dell'anticorruzione? Penso che non c'è la scelta migliore. Non c'è la scelta migliore, dice. Intanto in bocca al lupo ovviamente e complimenti. Grazie per la vittoria elettorale. Renato Natale, sindaco di Casal di Principe in provincia di Caserta, col quale concludiamo questa trasmissione di 24 mattino. Voglio salutare e ringraziare Miriam Lucchetti in redazione con Alessandro Marcotulli ed Elisabetta Fusconi e in regia Gianmarco Ferronato, che rimarrà tutta la settimana, credo. Sei contento? Vabbè, no, un po' metà. Giovedì tornerà l'Alpino, Peter Vescapè. Va bene, io ricordo che potete seguirci anche su Twitter, 24 mattino, questo è il profilo Twitter, il mio personale invece Alino Milan, c'è anche la mail, se volete, 24 mattino e radio24.it, e che dire, ci ritroviamo domani, puntuali, alle 6.30 in punto. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.